Non vi preoccupate, un'altra sigla, un altro modo di introdurre la trasmissione, e d'altronde capirete tra qualche secondo il perché, se non l'avete già capito, ovvero 451 Noise Rock, Max Macchia questa sera, insomma quando ascoltate tramite blog eccetera eccetera, quindi magari non per forza stasera, e quindi quando appunto porgerete le orecchie, i nervi, soprattutto quelli, appunto a questi ascolti, la sigla non sarà appunto quella di Radian, quella che ci accompagna da tempo, ma quella di Butterself, che mi sembrava insomma più che insomma non giusto, insomma, perché qua di giustizia ce n'è veramente poca, soprattutto quando si parla di noise, o se giustizia insomma è mascherata da una gigantesca ingiustizia sonora, cacofonica, terribile e quant'altro. E andremo a trovare quindi in questa prima ora, poi perseguiremo anche per molti altri versi nella seconda il noise, però in una chiave rock, perché no, anche rock and roll per certi versi, già Battle Surfers così ci informavano di come una sorta di post hardcore si potesse leggere in una chiave demenziale, cacofonica, poi li sentiremo d'altronde anche più o meno in chiusura di questa ora, con un pezzo veramente ancora più aperto di quello che abbiamo sentito, che tutto sommato insomma si muoveva su ritmi di quello che appunto possiamo considerare post hardcore, con tanto insomma di grugniti e di faccende che portano verso il noise rock. E per così aprire le danze, visto che insomma il pezzo zero, ecco, era quello di Battle Surfers, novella sigla per questa tra l'altro puntata del 451 Noise Rock, poi non sarà più utilizzata, ecco, ve lo prometto, per chi non ama Battle Surfers, ma insomma si dovrebbe anche ricredere per molti versi, chissà che non ci riesca col pezzo che metterò dopo. E vi dicevo appunto anche noise and roll, se vogliamo insomma fare un giochino di parole così abbastanza semplice, e quello di Holly McGrail, per appunto dare il via libera per tanti versi quello che è veramente una sorta di rilettura rock and roll noise, di qualcosa che già suonava tremendamente rumorista per gli anni suoi, volo Rap Power Suite, e appunto quest'opera che se non fosse di un impatto piuttosto insomma corrosivo, potrebbe anche essere detta concettuale, forse anche abbiamo anche trattato con 451 Noise Concept proprio il fatto che poi concettuale non significhi per forza astratto, ma di fatto insomma è particolarmente fisica la faccenda che mette su Holly McGrail, tra l'altro già dentro il progetto con Julian Cope, per varie insomma collaborazioni con lui, nell'ambito insomma quello più psicaut, quello ultra psichedelico, drone e quant'altro, insomma non ci metta il geniale inglese appunto Cope, e poi con Vesuvio, nome del progetto, insieme a Julian Cope e a Stefano Malley, quindi qua si può insomma immediatamente capire che si va verso sonorità ultra doom metal, che va a impattare con le psichedelie più profonde di Julian Cope, e con questo muoversi in maniera disinvolta nel rock più rumoroso di Holly McGrail, e con tanto tra l'altro anche di immagini e di immaginario così volutamente anche sardonico, quasi verrebbe da dire, di McGrail rispetto così anche a una sorta di maledettismo così di facciata da rivista di rock che campeggia in molte sue foto, appunto. Non andiamo appunto ad ascoltare con il progetto Vesuvio, ma mi piaceva ed era anche importante per creare quei ponti che 451 sta cercando di creare con il noise, che evidentemente è un genere, non genere, è un'attitudine che quindi può attraversare varie situazioni sonore, in questo caso appunto quelle più vicine al rock, magari anche per togliere quello che è stato per un periodo così, anche in maniera un po' facilona, considerato noise rock, anche quando non lo era, magari è più vicino al grunge o all'alternative rock più generalista, ecco. Ma questo insomma non toglie appunto vivacità, trasversalità del noise, che attraversa anche appunto lo stesso, perché no, gli stessi movimenti così chitarristici di certo grunge o paragrunge, di che era considerato tale, se pensiamo insomma anche a certi Melvins inseriti dentro il calderone grunge o alternative rock, se pensiamo insomma a che passeranno in forma un po' diversa, se pensiamo insomma anche alla fama dei alternative rock che hanno avuto i Sonic Youth, tanto per citare insomma un nome di un certo peso. Ma Olly McRae insomma si rifà più e rifà di fatto con questa Raw Power Suite a quel suono che già veniva considerato industriale, così insomma lo definì Iggy Pop negli anni 70, parlando appunto degli Stooges, quindi il suono di Detroit che voleva imitare per certi versi il suono delle macchine, quindi in questo senso anche è così un futurismo punk, potremmo dire, è un futurismo ur-punk, anzi, visto che non era ancora scoppiato come movimento e come quello che definiamo appunto punk. Olly McRae appunto per questo suo disfacimento appunto ulteriore, potremmo dire il degradabile, che viene ulteriormente degradato per molti versi in maniera paradossale, ma questo è anche una delle cose che ce lo fa rendere simpatico questo Raw Power Suite, sono addirittura amare in alcuni punti e sicuramente insomma ci apre le strade verso quello che potremmo considerare appunto noise rock, con un'accezione addirittura roll in questo caso. We'll be right back. in realtà poteva continuare il macello, la macelleria sonora che stavano creando Nazorani, Nazoranai, ok, sì, con ovviamente nomi che sfuggono, insomma, nella accezione, insomma, nel pronunciare, ecco, esotico, seppure, insomma, non è più esotico di certo il giapponese, perlomeno in termini musicali. Se pensiamo, tra l'altro, che abbiamo ascoltato in ordine Ollie McGray con il rifacimento a suo modo, insomma, di Rob Power, chiamato Rob Power Suite, e ora ci vuole appunto i giapponesissimi Le Ranize de Nodé, e poi appunto Nazoranai, che è un progetto, gli ultimi ascoltati, che è nato soprattutto per le mani incredibili di Keiji Aino, uno dei noiser, ma dei compositori anche vocali. Avete anche sentito, insomma, le sue urla belluine che hanno fatto scuola dagli anni Ottanta in poi, in termini appunto di quelle espressività che accompagnata anche da musiche molto urticanti o veramente talmente astratte, psichedeliche da farsi sul serio allucinanti, con la storica formazione Fusit Shusha, che ha altrettanto reso il noise materia quasi estatica per senso appunto di perdita, di oblio psichedelico. Lui d'altronde è sempre attivo anche in termini collaborativi. Nazoranai nasce insieme a Orion Ambarci, australiano anche lui, guastatore perlomeno della fine degli anni 90, con suoni sempre iperbolici, anche quando non va sul noise, un chitarrista e in questo caso anche percussionista, abbiamo sentito appunto in quest'ultima veste dentro a Nazoranai, e poi Stefano Malley, ma da sé, insomma, è l'uomo di la metà, anzi, di Sanò, oltre tantissimi altri progetti, dove appunto tra voce allucinata di Keiji Aino, chitarra, drone metal di Stefano Malley e batterie decisamente hardcore di Orion Ambarci, tutto mischiato poi con questa struttura improvvisativa, ma molto sempre pesante, nel senso hard del termine, quindi a caricare l'atmosfera, e in questo senso, insomma, tutte e tre molto molto importanti nel linguaggio del noise. Abbiamo messo in mezzo appunto tra Ollie McGray e il progetto appunto di Keiji Aino, Stefano Malley e Orion Ambarci, Le Ranize de Nodé, che è una veramente il gruppo forse pioniere in assoluto del noise rock. Magari qualcuno potrebbe anche dire, beh, sul serio, insomma, giapponesi negli anni 70 hanno creato il noise rock, molti magari, ma anche per questo vi dicevo, insomma, all'inizio di questa prima parte, di questa prima ora di 451, che c'è molta, insomma, ma come d'altronde ad esempio con Industrial pure, c'è molta confusione, anche molto annacquamento poi, che si è dato verso il noise per un periodo, insomma, associato più all'alternative rock, come vi dicevo prima, seppur insomma anche lì le cose non sono così semplici, ma ad esempio non si parlava di noise elettronico, non si parlava di noise concretista, quindi più vicino insomma a rumorismo, oppure appunto quanto il noise fosse stato esplorato dall'impro radicale, ma anche già da certa composizione contemporanea. Questo per dirvi che appunto le réalisé Denudé negli anni 70 creano proprio quel suono lancinante che avete sentito, che è veramente più marcio e più saturo, non si può, appunto è stato creato da questa mitica sul serio di culto formazione giapponese, guidata da questo così misterioso personaggio da Takahashi e Mizutani, anche perché è veramente girato pochissimo il materiale, tuttora gira molto poco il materiale in rete ovviamente, e per questo insomma veramente come dire, bisogna quantomeno essere grati appunto di poter ascoltare tramite appunto la rete, un gruppo che era fondamentalmente un gruppo di culto, ovviamente osannato, creiamo anche appunto un ponte con Julian Cope, prima accennato, con il progetto con Holly McGrail di Vesuvio, osannato perché non soltanto Julian Cope ha scritto quel libro fondamentale, veramente una spezia cosmica sul serio, molto alterata, ma una scrittura incredibile, anche qua veramente da viaggio cosmico, molto molto adrenalinico, tra l'altro quello della scrittura di Julian Cope dedicata ai tedeschi, Krautrock Sampler, al cosmico tedesco, ha fatto anche sul Giappone, sul gli psichedelici noiser e quant'altro giapponesi, e va da sé insomma che Taj Mahal Travelers e le réalisé Denudé, che tra l'altro hanno anche collaborato insieme, beh, siano veramente tra le formazioni più citate e amate giustissimamente da Julian Cope. L'unione appunto tra quello che possiamo considerare appunto l'inizio del rumore punk, così in maniera più come attitudine, è nata appunto con gli Stooges, unita appunto con invece un suono hard rock che veramente va verso lidi impensabili di saturazione sonora. Se si pensiamo insomma all'hard rock degli anni 70, così viene da sorridere a pensarlo come rock appunto duro, quando avete sentito e abbiamo sentito le réalisé Denudé, quanto si potesse veramente creare ancora in termini appunto di perché no chiamarla appunto sperimentazione, in questo caso fino a far nascere appunto il noise rock, di fatto insomma i nostri giapponesi con a capo insomma Takahashi Mizutani, beh, di fatto insomma sono pionieri a tutti gli effetti di quello che tra l'altro stiamo trattando questa sera appunto come noise rock. E abbiamo aperto con una sigla, non sigla, che è quella di Battle Surfers, tra l'altro un pezzo dal loro primo disco che abbiamo anche in sottofondo, più o meno in sottofondo, sottofondo, e andiamo a prenderlo da un pezzo loro dedicato ad un altro che insomma ha portato il suono verso sperimentazioni lancinanti, ovvero Jimi Hendrix. Jimmy è il pezzo appunto di Battle Surf, e qua si sente veramente il Jimi Hendrix con quella utopia noise chitarristica di 1983, ad esempio, ma non solo, insomma, in varie circostanze c'è stato appunto un Hendrix apertissimo verso anche il mondo appunto del va da sé, insomma, del noise, soprattutto del feedback. È stato un maestro, insomma, della chitarra appunto con effetto e ritorno appunto feedback. Battle Surfers stampano insieme a Blast First, storica etichetta eccezionale, pensate soltanto, insomma, Sarra nel catalogo, Pansonic, passando per Suicide, ma veramente l'hardcore più incredibile, e quindi, insomma, veramente un'etichetta di quelle, insomma, da non soltanto da amare, ma da adorare, soprattutto, insomma, se si va verso suoni sperimentali, in questo caso con Battle Surf, presi da una storica compilation Nothing Short o Total War, tra l'altro, insomma, a titolo che insomma, purtroppo suona fin troppo in maniera consonante con questi giorni. A Blast First, appunto, complication, non compilation, insomma, non contenti di compilare, basta, ma di complicare la faccenda appunto con Battle Surf. E per chiudere, così, insomma, vi lancio in tutte e due un'altra storica formazione, non poteva, insomma, mancare Steve Albini e i suoi Big Black, sempre presi da quella compilation con Kerosene, pezzo dove certo post-hardcore soprattutto con quel basso veramente che ancora ricorda invece proprio l'hardcore, ma post, perché è impostato appunto su un deragliamento noise chitarristico, anche lì saturo, e una batteria elettronica molto molto vicina a quello che poi diventerà il Matt Rock, creato da un altro progetto di Albini, lo storico, insomma, Shellac, che tra l'altro stampava per Touch and Go, l'etichetta di Battle Surfers, quando appunto non andavano, insomma, così vagando per altre etichette, come fanno appunto con Best First, per appunto il loro pezzo Jimmy. Quindi per chiudere questa prima ora, Battle Surf, come vi dicevo, con il pezzo Jimmy, e la botta appunto di Big Black con la loro Kerosene. Vi rimando appunto alla seconda ora di rumori, a questo punto rock, potremmo definirli così, se qualcuno non si offende, mai, magari qualcuno, insomma, qualche purista del rock che nasce come suono sporco e evidentemente, insomma, così in maniera paradossale se la potrebbe anche prendere, visto che ci sono anche quelli. Ma tant'è che io vi mando appunto il Battle Surfers. Ciao, fate i bravi. von Big Black, die fasziniert. Mit brachialer Gewalt gespielt von Santiago Durango, dessen bekanntes Kling süchtig macht. Steve Albini, aus dessen Gitarre das gegenspielerische Klong direkt in den Magen bohrt. Und im Hintergrund säbelt Dave Riley an seinem Bass. Der Rest ist Computer.